dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale legato all'Europa, all'attualità politica ed economica dell'Europa. Viene seguita giorno per giorno da Radio 24 nei GR, negli speciali. Noi il sabato cerchiamo così di respirare un po' la cultura europea, lo facciamo da tanti punti di vista diversi. Un programma in collaborazione con Euronet, www.euronet.eu, il portale del nostro network paneuropeo, che vi consiglio come sempre di visitare, perché tanti dossier, tante inchieste, tanti percorsi, anche insomma tante riflessioni, tanti ragionamenti in tante lingue diverse, quindi è sicuramente una bella opportunità. Le coordinate per seguirci anche sui social network: facebook.com/l'altraeuropa, oppure chiocciola Federico Taddia via Twitter, social network che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Ogni settimana un viaggio, il viaggio di oggi ci porta fino a Capo Nord. Da Palermo a Capo Nord, in un insolito itinerario che ha toccato prima Tunisia, Algeria e Marocco, e poi Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Norvegia, questa Europa vista fotografata lungo la costa, perché questo strano viaggio è stato percorso a bordo di un gommone. Sono partiti a giugno da Palermo e proprio in queste ore stanno per raggiungere il loro traguardo. Il sito è churichurimare.com per conoscere l'impresa dello skipper Sergio Davi, che ora è a bordo del gommone insieme a Saverio Mandarano. Ciao Sergio, benvenuta all'altra Europa. Ciao Federico, buongiorno, non so come mi senti, io ti sento benissimo, insomma. Dacci subito le coordinate, dove ti trovi in questo momento? Allora, mi trovo a poco più di un grado di latitudine dal circolo polare artico in questo istante, quindi siamo a circa 500 miglia da Capo Nord. Uh-huh. Abbiamo fatto parecchia strada, siamo partiti il 17 giugno da Palermo e adesso insomma siamo qui. A noi piace raccontare storie, imprese che appunto così riescono a fotografare l'Europa da punti di vista particolari. Tu di fatto hai visto una bella fetta d'Europa dalle coste, perché lungo le coste avete navigato, ma qual è il cuore di questa impresa? Perché avete voluto lasciare Palermo a bordo di un gommone e raggiungere Capo Nord? Allora, Capo Nord è sempre stata una meta molto particolare, una meta di po' la fine del mondo del nord, insomma. Certo. E chi va in moto, chi va in camper, noi abbiamo deciso di farlo in gommone, un gommone assolutamente semplice, quelli che abitualmente, un gommone di 8 metri che abitualmente va per le spiagge, ovviamente attrezzato con apparecchiature elettroniche particolari, si intende, ma il gommone è assolutamente di serie, quindi tutto è partito dalla passione e dall'avventura, poi sono subentrati insomma altri progetti che adesso ti spiegherò, quindi siamo qua. Siete lì e che Europa hai visto da questo punto di vista particolare, da questo osservatorio curioso, perché non è da tutti poter vedere tanti chilometri d'Europa lungo il suo perimetro? Noi abbiamo visto ovviamente tanta gente di mare, tanti porti, anche lì abbiamo fatto un po' il polso della situazione su quella che è la crisi, non è la crisi, i porti un po' vuoti, i pieni, la gente che si sposta, anche perché questo viaggio è stato programmato in un periodo in cui la gente insomma abitualmente va in vacanza, no? Dalla fine di giugno in poi. E abbiamo trovato differenze come al solito, e si respira sicuramente nei porti, in alcuni porti, soprattutto in Spagna e in Portogallo, sicuramente un'area molto importante di crisi. Questo sì. Questa quindi l'avete percepita anche voi, appunto, toccando i vari porti. Un'impresa sportiva, ma non solo, perché è anche una sorta di analisi delle acque europee quella che state facendo a bordo del gommone, vero? Sì, nella realtà abbiamo iniziato con ovviamente un progetto del genere ha bisogno di tantissimi sponsor, poi abbiamo anche creato, si è creato questa collaborazione con l'Università di Palermo, di questo ovviamente ringraziamo il rettore La Galla, che ci ha consentito di fare due ricerche molto importanti, una nel Mediterraneo in merito alla temperatura dell'acqua e comunque tendenzialmente aumenta, e l'altra, una molto importante pure col Dipartimento di Psicologia, che misura lo stress, in poche parole, del comandante dell'imbarcazione e anche, diciamo, dell'equipaggio. Insomma, in questo caso siamo in due, quindi io e Saverio, e lì non so i risultati che verranno, ma sicuramente, sai, l'umore cambia, la stanchezza psicofisica si fa sentire, come tutte le imprese di terra o di mare, i momenti più difficili sono sempre poco prima dell'arrivo, insomma. Certo. Ecco. Sergio, voi di fatto avete fatto solo una raccolta dati, quindi saranno poi gli specialisti a fare le analisi, però così a spanne, per quanto riguarda l'aumento della temperatura dell'acqua, hai visto qualcosa di macroscopico, hai toccato con mano questo cambiamento climatico? Allora, nella realtà l'aumento della temperatura dell'acqua non è stato fatto con delle misurazioni a mare, ma sì, con delle interviste ai pescatori, per vedere quello che i pesci che hanno avvistato, che hanno preso negli ultimi anni, e quello che ultimamente trovano nelle loro reti. Quindi praticamente, secondo il tipo di pesci, poi in pratica viene fatto un resoconto, che io ovviamente non sono in condizione di poterlo fare, non sono un biologo marino, e questo poi saranno all'Università di Palermo. E comunque avete trovato risposte che vi hanno sorpreso? C'è stato qualcosa di praticamente eclatante? Sì, un tipo di pesce che francamente non ricordo il nome, che abitualmente non è abitualmente dei nostri mari, questo sicuramente sì. Questo è stato riscontrato in Algeria, dove abbiamo, malgrado avuto un'infinità di controlli, abbiamo trovato gente molto, molto disponibile, gente veramente molto carina. Ecco, 4.200 miglia nautiche, quindi un tratto veramente lungo. C'è una cartolina della nostra Europa che ti porti nel cuore? C'è un'immagine che più di altre rappresenta il vostro viaggio? Mi porto sicuramente molto probabilmente un po' ho dovuto accendere un attimo i motori perché c'è un rimorchiatore che sta estrenando una cosa, quindi mi sono dovuto spostare. La cartolina importante è sicuramente quello che la gente di mare è uguale per qualsiasi mare. Abbiamo trovato gente che ci ha aiutato veramente tantissimo. Noi dormiamo in tenda, quindi non so, i marina per esempio ci davano la disponibilità dei loro, cioè dei loro uffici sociali e cose di questo genere. La gente di mare, che non so, per esempio qui in Norvegia siamo arrivati a Alisund, scusatemi la pronuncia, ma insomma, immediatamente la gente di mare ha detto: ma è impossibile, voi venite dall'Italia e dalla Sicilia. E ci hanno dato, non so, chi ci offriva la cena, chi ci offriva il bicchierino e cose di questo genere. In Normandia ci hanno offerto, ovviamente, tanto per cambiare, i normanni bevono molto e sanno anche bere bene, dei liquori locali che insomma noi ci portiamo dietro, e che ogni tanto un bicchierino, visto che l'aria è abbastanza gelida, sinceramente ce lo facciamo. Grazie davvero, Sergio. ricordiamo il sito per chi appunto volesse anche vedere l'intero itinerario, che è ciurimare.com. Ancora qualche giorno di navigazione, poi Capo Nord è lì che vi aspetta. Ciao e grazie. Federico, grazie a te. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Europost-it. In Inghilterra, uomo volante cercasi. In palio, un ricco bottino. Il 18 e 19 agosto in Inghilterra va in scena il Worthing Birdman, la competizione per uomini volanti. I concorrenti si sfidano nella costruzione di macchine rudimentali che siano capaci di vincere la gravità. Ci sono tre categorie di velivoli che si sfidano dalla rampa montata sul fronte mare di Worthing. Leonardo da Vinci, che premia l'innovazione e la tecnica, la categoria Condor, riservata ai deltaplani modificati, e il gruppo Kingfisher, quello più divertente, che vede la partecipazione di accrocchi eccentrici e di velivoli stravaganti che spesso e volentieri si infrangono in acqua dopo pochissimi metri di volo. In palio ci sono ben 10.000 sterline, un premio davvero ricco che viene quasi sempre devoluto in beneficenza. Per partecipare o assistere alla manifestazione, visitate il sito worthingbirdman.co.uk. Per parlare di money, per parlare di soldi, per parlare di fondi europei, Euronet ogni settimana sceglie un argomento comune, il focus, la finestra di oggi è proprio sui fondi europei. La domanda è: i sussidi dell'Unione Europea, esiste anche la possibilità di finanziare cattive abitudini, nel senso che l'Unione Europea e i sussidi sono sempre andati d'accordo, però a volte i destinatari di tali fondi hanno obiettivi che possono apparire anche moralmente ambivalenti. Questa era un po' la richiesta. Poi ieri su Repubblica una lunga inchiesta che così ha messo un po' sotto accusa alcuni di questi fondi, l'utilizzo che ne viene fatto, la bizzarria a volte del destinatario finale, andando anche a sottolineare quelle che sono non solo ambivalenze ma a volte anche contraddizioni. Per fare un po' luce, per fare chiarezza su tutto ciò, abbiamo invitato il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diamo il benvenuto a Lucio Battistotti. Ciao Lucio, buon sabato. Ciao Federico, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito su un tema che è tosto, è un tema, è vero, di cui si parla tanto, ma le competenze poi tra i non addetti ai lavori sono anche poche, no? Quindi viene facile criticarli, viene facile fare anche del semplice populismo, credo. La prima domanda che ti voglio fare, prima di andare nello specifico, è: esiste anche uno sguardo etico a questi fondi europei? Ma io ti ringrazio intanto di avermi invitato e è vero che l'articolo di ieri è un po' come di Repubblica, è un po' come sparare sul pianista in questo momento di crisi economica, dice ecco che l'Europa butta i soldi dalla finestra. E quindi, però io ho accettato l'invito perché ritengo che bisogna parlarne, allora anche per chiarire dei punti che forse non sono chiari, a volte si tende a semplificare. Allora, lo sguardo etico, tu dicevi, ebbene lo sguardo etico c'è sicuramente, perché è anche possibile che determinati fondi, i cosiddetti fondi strutturali, sì, siano poi andati a dei progetti, ecco, perlomeno originali, diciamo tra virgolette. Questi progetti però sono stati approvati dalle autorità a livello locale, in sede di dichiarazione finale delle spese, questi progetti poi verranno tagliati, per cui è sicuro che le spese fatte per questi progetti non ricadranno sui cittadini europei. Allora, vi racconto un fatto, alcuni anni fa in effetti si chiarì che la regione Campania, tanto per non fare nomi, diciamo, pagò con i fondi europei un concerto di Elton John costato circa 700.000 euro. Ebbene, questo la regione Campania lo fece, poi però il progetto in sede di rendicontazione fu tagliato e non una lira di questi soldi, che ricordiamolo sono dei cittadini europei e quindi anche dei cittadini italiani, sono i nostri soldi. E quindi tutti abbiamo diritto a che siano spesi bene, in un modo corretto e anche, come dicevi giustamente tu, secondo principi di etica, specie in questi momenti di crisi economica in cui non ci possiamo permettere certo di buttare dalla finestra i soldi. Certo, perché comunque si parla di tanti soldi e di una grossa opportunità, perché questi fondi veramente possono muovere l'economia. Io credo anche che la stranezza che ci sta dietro, l'apparente stranezza che ci sta dietro a qualche progetto, poi è anche soggettivo il concetto di stranezza, perché riuscire a incentivare anche attività particolari credo che possa essere un valore aggiunto per il territorio. E poi il come se ne fa, come si usano questi soldi, è vero, dopo ricade anche nelle comunità locali. È difficile fare un progetto europeo, è difficile accedere a questi fondi. E quanto gioca la creatività per poter riuscire a fare progetti in grado di catturare, tra virgolette, questi soldi? Guarda, io direi che anche per gli ascoltatori bisogna chiarire, ci sono due tipi a grandi linee di fondi europei, i cosiddetti fondi strutturali europei, che sono tantissimi soldi. Nel periodo 2007-2013 l'Italia ha avuto un'assegnazione di 29 miliardi di euro. Questi fondi sono fondi in cofinanziamento, cioè vuol dire che c'è una parte europea e una parte nazionale. Questi fondi poi sono gestiti, diciamo, si stabilisce a livello europeo una strategia generale di intervento e delle priorità. Poi queste vengono declinate a livello delle singole regioni. Le singole regioni sono responsabili dell'attuazione e anche del controllo dei progetti, cosa importantissima, come dicevo prima. Poi ci sono dei fondi che sono fondi diretti dell'Unione Europea che partono da Bruxelles, per cui vengono fatti dei bandi su scala europea, cioè su 27 paesi. Ci sono fondi per la ricerca, ad esempio, fondi importantissimi, della creatività è straordinariamente importante, si parla di un paio di miliardi, 2-3 miliardi all'anno in aumento, comunque su per la ricerca nei campi più straordinari del sapere umano, ecco, lì però coloro che vogliono concorrere si confrontano con gli altri concorrenti europei, quindi sono progetti anche più difficili da elaborare e che danno però un finanziamento diretto che arriva da Bruxelles. Quindi abbiamo visto che sono due tipi di approccio a questi progetti. Una cosa importantissima per noi è quella della trasparenza. Ecco, lì diciamo che l'Italia deve ancora fare dei passi avanti, cioè il miglior controllo sull'uso dei fondi, e per questo io dico benvenuto all'articolo di ieri, anche se su alcune cose non sono d'accordo, eccetera, ma il miglior aiuto al buon uso dei fondi è la trasparenza. Se ogni percettore, quindi ad esempio la regione, ogni regione italiana pubblicasse quanti soldi ha ricevuto, che progetti ha finanziato, come sono andati a finire questi progetti, perché lì è importante anche, cioè cosa si è fatto dei soldi, al di là del fatto che si siano spesi bene o male, bene o male nel senso che sono stati spesi correttamente in termini finanziari, quello che è importante è il buon uso delle risorse, sapere che il progetto che si doveva finanziare è andato a buon fine, si è costruito un ponte che esiste veramente, certo, che ha aiutato un lavoratore a mantenere il posto di lavoro, eccetera, eccetera. Scusate se mi infervoro, ma è una cosa in cui credo molto, in effetti. Ma assolutamente, ma adesso leggo così proprio alcuni dei dati usciti ieri su Repubblica, sì. No? Per esempio, allevamento api in Austria, 25 euro per alveare, progetti di gemellaggio tra le città europee, 150.000 euro, progetto che sostengono il turismo in bassa stagione, 150.000 euro. Ecco, sì. Sono numeri grandi, ma tu, da addetto ai lavori, ti scandalizzi leggendo queste cifre? Ma senti, non particolarmente, perché ad esempio il progetto per le api in Austria, perché no? Perché l'Austria ha scelto un tipo di sviluppo equilibrato e locale, per cui voi sapete, è stato il problema delle api recentemente, no? Per cui c'è stata una moria di api, eccetera. Quindi io non vedo che siano proprio soldi buttati via in quel caso. Il progetto ad esempio dei twinning, cioè dei gemellaggi tra le varie città europee. Se pensiamo a che cosa è oggi la percezione dell'Europa, in cui sentiamo i tedeschi lontani e cattivi, no? Cioè, è vero, c'è un degrado, diciamo. Se fino a 10 anni fa, 5 anni fa, sentivamo gli europei, visto che il nostro passaporto è il passaporto italiano e Unione Europea, c'è scritto sopra, ebbene, stiamo un po' perdendo questa dimensione europea. 150.000 euro per finanziare dei progetti possono anche essere spesi bene, poi bisogna vedere in concreto, ecco. Ovviamente. Io quello che non so, non conosco i dettagli dei progetti, poi alcuni possono essere veramente, come dicevo prima, finanziare concerti di grandi star, beh, quello no, insomma, quello veramente non possiamo assolutamente, non sono cose che non si possono fare. E sai, io credo che gli autori abbiano appunto preso una serie di progetti che sono stati finanziati adesso, come dicevo prima, alla fine del periodo, cioè nel 2015, si verrà fatta la rendicontazione a Bruxelles, se quei progetti non sono buoni, i soldi ce li rimette poi la regione, quindi è ancora peggio, se vogliamo, perché quel progetto non sarà cofinanziato da Bruxelles, ma resterà sul groppone del contribuente nazionale, che sia austriaco, sloveno o greco, insomma. Ecco. Lucio, grazie davvero per aversi. Grazie a voi. E poi torneremo sicuramente, perché è un argomento caldo e vogliamo veramente sottolineare quanto sia un'opportunità importante per la nostra economia. Lucio Battistotti, direttore rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Buona estate, Lucio, ciao. Grazie anche a voi, ciao ciao. Europostit. Inv Factor è la competizione organizzata dal CNR e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dedicata ai giovani creativi degli istituti superiori che hanno lavorato tutto l'anno con l'aiuto degli insegnanti per mettere a punto le loro tecnologie. Invenzioni come il dispositivo antiribaltamento per trattori, la carrozzina per disabili con comando vocale, il robot contro le fughe di gas e le etichette in braille confermano la sensibilità dei ragazzi verso la sicurezza sul lavoro, la difesa dell'ambiente e il sostegno alle categorie svantaggiate. Le migliori invenzioni saranno presentate il 20 settembre 2012 a Roma, mentre i vincitori saranno invitati a esporre in occasione dell'evento Light, accendi la luce sulla scienza, nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, che si terrà al Planetario di Roma il 28 settembre 2012. Per maggiori informazioni visitate il sito invfactor.cnr.it. Riapriamo l'altra Europa con l'inno del Manchester United. Si parla di sport in questi giorni, le Olimpiadi ovviamente al centro di tutto quello che è un po' lo spirito sportivo, lo spirito olimpico che traspare, uno dice che è bello, insomma si parla di queste cose, non si parla del solito calcio. Poi in Italia per esempio si aprono i quotidiani e il calcio è ancora al centro, ma mostrando il lato più brutto, la sua faccia, quella appunto che ha pochissimo a che fare con lo sport. Proprio di calcio invece vogliamo andare a parlare con un progetto che cerca di, così, di mitigare il rapporto tra calcio e resto del mondo. Un progetto europeo per migliorare il calcio coinvolgendo i tifosi nella proprietà e nella governance dei club. Un progetto importante, un progetto che coinvolge anche l'Italia, che sta proprio entrando nella sua vera fase esecutiva. Diamo il benvenuto a Diego Riva, consulente legale per l'Italia per il progetto per conto di WISP. Ciao Diego, buon sabato. Ciao Federico, buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. È un progetto che nasce da un'idea inglese, se non erro. Ci vuoi fotografare tu di cosa si tratta? Il progetto nasce è promosso da un'organizzazione inglese denominata Supporters Direct, insieme ad 8 organizzazioni di altri paesi europei. Per l'Italia, come ricordavi tu, l'UISP. È un progetto appunto che rientra nelle aree delle governance dello sport ed è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito dell'azione preparatoria nel settore dello sport, una comunicazione della Commissione Europea del 2011. Supporters Direct è un'entità appunto nata in Inghilterra nel 2000, dal 2006 opera in tutta Europa e riferisce ai propri stakeholder, sono l'istituzione europea, quindi Commissione Europea, Parlamento Europeo, UEFA e poi a livello nazionale le singole leghe e le singole federazioni. La riflessione da cui parte il progetto era quella che dicevi tu, il fatto che in tutta Europa lo sport professionistico subisce gli effetti negativi di modelli finanziari che non sono più sostenibili e che hanno una debole governance e che manca una responsabilità democratica degli assetti proprietari. Sulla base di tale sfondo, Supporters Direct insieme ai propri partner, quindi per l'Italia l'UISP, che è il più grande ente di promozione sportiva in Italia, che ha più di 1.300.000 membri, ha osservato esempi eccellenti invece di società di calcio partecipate e gestite dai tifosi e state sviluppate da associazioni non profit democratiche di tifosi che sono conosciute in Europa come Supporters Trust. Mm-hmm. Queste organizzazioni acquisiscono delle partecipazioni nei club ed eleggono i propri rappresentanti negli organi direttivi del club. Ma Diego, stiamo parlando di club di alto livello o stiamo parlando di calcio amatoriale? Stiamo parlando di club dalla Premier League, dalla Serie A alla terza categoria, dalla Bundesliga Serie A all'equivalente della terza categoria tedesca, tutta Europa. Sono fenomeni che si verificano, che abbiamo registrato in oltre 10-15 paesi europei. Facevi l'esempio del Manchester, a Manchester ci sono due realtà, c'è il Manchester United che tutti conosciamo, che ha un'organizzazione democratica dei tifosi che pur non partecipando al capitale sociale è molto forte e protesta contro le logiche finanziarie che stanno sviluppando nel calcio. Questa organizzazione dei tifosi anni fa è stata approcciata da alcuni investitori che erano interessati a diversi modelli di assetti proprietari sul presupposto che un assetto proprietario diverso ha un'influenza sulla governance per acquisire insieme ai tifosi la società di calcio. Il Manchester United ora è in procinto per andare in borsa, a New York i tifosi hanno già detto che vogliono partecipare per poter appunto eleggere i propri rappresentanti e far presente le proprie istanze. Mm-hmm. Sempre a Manchester c'è un'altra realtà in cui invece per rendere accessibile il calcio a tutti, in logiche finanziarie difficilmente accessibili per il prezzo per esempio dei biglietti, ha fondato un'altra realtà che fa sempre riferimento all'esperienza del Manchester, ma che cerca di rendere il calcio accessibile a tutti. Ecco, in ma Germania le società per legge sì. devono essere controllate dai tifosi e abbiamo esempi virtuosi e in Germania abbiamo finaliste in Champions League, quindi in realtà sono modelli possibili e in alcuni paesi come in Germania e come in Svezia addirittura imposti per legge. Diego, ma il primo obiettivo è quello del sostentamento economico della società o c'è un secondo obiettivo, nel senso coinvolgere i tifosi nella gestione del club e porta a un rapporto nuovo, diverso, si evitano problemi, che ne so, anche di ordine pubblico per esempio? L'obiettivo è esattamente quello che dici tu, in realtà la riflessione che si è fatta sia a livello giuridico ed economico che è una proprietà diffusa nel settore degli sport collettivi, in particolare il calcio, contribuisce a innestare delle pratiche virtuose sia di sostentamento finanziario ma sia soprattutto di dialogo, perché una stabilità di assetti proprietari in cui il primo valore della società, il primo asset della società che è il tifoso, è lui che viene consultato e che ha voce in capitolo e che contribuisce a una gestione corretta e poi anche a risolvere determinate dinamiche. E quello che dici tu, per esempio, della violenza è esattamente una delle dinamiche, anche se non è oggetto di questo studio, di questo progetto, che è facilitato dalla partecipazione attiva dei tifosi in esercizio di gestione democratica. E in tutta Europa i tifosi si sentono già cittadini europei, quindi c'è anche una valenza di costruzione del cittadino a livello singolo, delle singole nazioni, poi della costruzione del cittadino europeo. Quando si partecipa alle riunioni con i tifosi di tutta Europa che stanno costruendo questo progetto, quello che si sente al di là del calcio e della passione è cercare di costruire un progetto comune che vada al di là dello sport. Grazie davvero Diego, ricordiamo il sito della WISP, wisp.it/Emilia Romagna, oppure c'è anche un blog che mi pare con i tifosi.wordpress.com per avere un po' di informazioni sul progetto, sul quale torneremo sicuramente poi nella sua fase esecutiva, a campionato in corso. Buon lavoro, grazie. Grazie, grazie a voi. Europost-it. Agosto alle Baleari a caccia di paperelle allo sbaraglio. Accade a Ferragosto nella località turistica di Can Picafort sulla meravigliosa isola di Maiorca. Ogni anno dai primi anni 20 si celebra la Fiesta of the Ducks, che consiste nella liberazione di 350 papere da parte di 5 barche ancorate al largo dell'hotel Solimar. La festa è stata per decenni totalmente illegale, visto l'impiego di animali vivi che spesso sono finiti sulle tavole dei turisti e dei maiorchini. Come soluzione, la cittadinanza ha sempre raccolto in anticipo i soldi per pagare le immancabili multe e continuare a fare la festa alle paperelle. Da qualche anno le pressioni dei gruppi animalisti hanno sortito dei risultati e i volatili sono stati sostituiti con paperelle di gomma come quelle da vasca da bagno. Per maggiori informazioni sulle isole Baleari visitate il sito ufficiale illesbalears.es. Qualche nota dell'inno della Bosnia, perché stiamo andando appunto a parlare di questo mese d'agosto che sarà un mese decisivo per la Bosnia Erzegovina e ne parliamo con Andrea Rossini, giornalista e collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, balcanicaucaso.org, che ha appena pubblicato un articolo molto bello, nel senso che chiarisce molto bene l'agosto che aspetta la Bosnia. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Un mese decisivo, così lo hai presentato. Perché? Cosa deve fare la Bosnia in questo mese di agosto? La Bosnia deve armonizzare la propria Costituzione alla Convenzione Europea per le libertà fondamentali e i diritti umani. E quanto ha stabilito la Corte Europea di Strasburgo, dopo aver accolto un ricorso presentato da un cittadino, un rappresentante della comunità ebraica di Sarajevo, Jacob Finzi, e da un rappresentante invece della comunità rom bosniaca che si chiama Dervo Sejdic. Di fatto l'attuale costituzione bosniaca che è stata redatta a Dayton alla fine della guerra nel 95 istituisce tutto un sistema di quote etniche e alcune funzioni pubbliche, ad esempio l'ufficio di presidenza, ma anche molte altre, sono attribuite esplicitamente dalla Costituzione a rappresentanti del popolo serbo, croato o bosniaco, o bosniaco musulmano. La Corte dei giudici di Strasburgo hanno detto che questo sistema non va bene, che questo sistema è discriminatorio e che è contrario allo spirito appunto della Convenzione europea di cui la Bosnia è firmataria. Questa pronuncia dei giudici di Strasburgo in realtà è già vecchia di oltre 2 anni, ma da più di 2 anni i politici bosniaci cercano di mettersi d'accordo per trovare una soluzione. A questo punto è intervenuta la Commissione europea. Come sapete, la Bosnia-Herzegovina sta procedendo lentamente, ma sta procedendo verso l'integrazione europea. La Commissione europea a questo punto ha fissato un termine, che è quello del 31 agosto, per presentare una proposta di riforma accettabile che permetta appunto di adeguare la Costituzione con la Convenzione per i diritti umani. Ecco, è un termine di fatto vicinissimo, ci sono speranze che ciò avvenga. Tu utilizzi una parola che è stagnazione, che mi sembra una parola di sano realismo, ma non di tanto ottimismo. Sì, di fatto la politica bosniaca è in una situazione di stagnazione. Le ultime elezioni si sono tenute nell'ottobre del 2010. Per formare un governo ci è voluto quasi 1 anno e mezzo. Dopo 5 mesi questo governo è entrato in crisi e adesso abbiamo solo una serie di proposte sparse, diciamo, però non c'è ancora un accordo che permetta di realisticamente di accogliere questo termine del 31 agosto. Alcuni osservatori, ad esempio l'autorevole Centro Studi International Crisis Group, propongono alla Commissione europea di diluire questo termine e di fare della riforma costituzionale un elemento del percorso di allargamento, un elemento, come dire, del percorso di integrazione europea della Bosnia-Herzegovina, senza avere una data una sorta di ultimatum che potrebbe portare a soluzioni anche peggiori della situazione attuale. Andrea, può permettersi di arrivare, di non fare questo emendamento, di non fare questa variazione alla Bosnia? No, la Bosnia, diciamo, il percorso europeo per la Bosnia-Herzegovina è un percorso, diciamo, indispensabile da un punto di vista direi sia politico che economico. Di fatto tutti i maggiori leader politici bosniaci concordano su questo punto. Il problema è appunto trovare una quadratura del cerchio, una soluzione che permetta di garantire i diritti, tutelare i diritti dei cittadini, come vuole come chiedono i giudici di Strasburgo, ma allo stesso tempo in un sistema che permetta anche di tutelare i diversi gruppi nazionali che compongono questo paese, che appunto noi abbiamo definito una unione di minoranze. La Bosnia-Herzegovina è un'unione di minoranze, la maggiore di questa minoranza sono i bosniaco-musulmani, poi ci sono serbo-bosniaci, croato-bosniaci, ci sono moltissimi cittadini che semplicemente vogliono essere definiti e si identificano come bosniaci tout court, senza un prefisso, diciamo, ulteriori prefissi nazionali o etnici. Questi cittadini di fatto oggi come oggi, ed è quanto rileva anche la Corte di Strasburgo, non sono tutelati, non trovano rappresentazione nelle istituzioni, nello scenario politico bosniaco. Grazie davvero ad Andrea Rossini, balcanicaucaso.org, per leggere i suoi articoli molto belli, molto puntuali. Ciao Andrea, buona vacanza, ci ritroveremo sicuramente qui in autunno per parlare ancora di Bosnia, l'altra Europa. Ciao. Hanno attraversato l'Italia, il Montenegro, l'Albania e la Grecia per una sorta di avanscoperta, per cercare musicisti in ogni tappa, così lo step, il primo step di un progetto che si chiama One Song for People, un incontro tra le culture dell'Adriatico meridionale. Vorrà essere un viaggio in barca a vela attraverso queste quattro nazioni, dove però si è spinti non solo dal vento ma anche dalla musica. Un progetto di Andrea Zuine e Diego Rizzo. Abbiamo dato a loro l'in bocca al lupo il giorno della partenza, ora sono di ritorno e queste sono alcune delle musiche che hanno raccolto con noi. Diego Rizzo, ciao Diego. Ciao Federico, buongiorno, come va? Molto bene, grazie. Ricordiamo subito il blog www.ilcamminodellamusica.it. Avete fatto questa prima tappa del vostro progetto, registratore alla mano, avete bussato alla porta di giovani musicisti e avete raccolto musica, giusto? Esattamente, anche se spesso non c'è stato neanche bisogno di bussare, perché il destino ci ha messo direttamente in contatto con i musicisti dei luoghi e oltre alla registrazione abbiamo fatto anche un poco di documentazione video, perché vogliamo anche promuovere la bellezza di questi luoghi, la bellezza paesaggistica, naturalistica, che è meravigliosa. Ecco, e la cultura ricchissima. Diego, raccontaci un po' qualche immagine di questa vostra avventura. Beh sì, è stato tutto molto bello, molto intenso. Ci sono capitati degli episodi veramente particolari. Per esempio in Montenegro ci siamo fermati per caso in un luogo dove vendevano un poco di prosciutto perché eravamo affamati per strada, e abbiamo scoperto che lo zio di questo ragazzo che vendeva prosciutti era un musicista di guzla, lo strumento tipico montenegrino, e ci ha portati dallo zio, abbiamo registrato, questo è uno degli episodi, e anche a Itaca, la famosa Itaca. Aspetta, abbiamo fatto, scusa Diego, che abbiamo proprio un assaggio anche credo di questa musica montenegrina. È questo lo strumento? Esatto, questa è la guzla montenegrina, uno strumento molto arcaico che loro usano per raccontare delle storie nazionali, diciamo, legate alla storia della nazione, il loro popolo, insomma, è uno strumento molto esotico. Invece ci dicevi appunto l'incontro successivo che ti ha praticamente colpito, qual era e dov'era? Sì, poi siamo passati anche dall'Albania, dove sono successe un bel po' di cose, anche in Grecia. Siamo arrivati a Itaca, la famosa Itaca, anche con un poco di difficoltà di navigazione perché abbiamo avuto degli imprevisti. Abbiamo ormeggiato per caso vicino a un pontile dove c'era un bar e il proprietario del bar ci ha presentato Atina, che è una ragazza che fa teatro e che conosceva molti musicisti nell'isola di Itaca. E quindi poi la sera eravamo con Atina e i suoi amici musicisti a suonare e scambiarci idee per l'anno venturo. Voi siete musicisti, siete appassionati di musiche popolari, l'idea è proprio quella di collegare con la musica queste quattro nazioni apparentemente simili ma anche molto diverse, quindi una sana contaminazione. Avete trovato voglia di usare la musica come unione? Perché sono anche località dove spesso, insomma, i dissidi e le divisioni sovrastano la voglia di fare cose insieme. La musica invece riesce a essere un linguaggio superiore ai confini. È verissimo, divisioni ce ne sono tante, noi ne abbiamo anche toccate con mano, però poi nel momento in cui si esce fuori dai confini ideologici o nazionalistici e si va a puntare all'essere umano, e la musica è uno degli ingredienti che fa parte di più della natura profonda dell'essere umano, i confini vengono superati e infatti c'è molta voglia da parte di questi musicisti di partecipare. Stiamo formando una bella squadra per il 2013. E anche gli equipaggi che stiamo portando con noi, perché ci sono equipaggi che stanno partecipando dal vivo al nostro progetto, hanno molta voglia e si stanno divertendo molto a vedere questa unione umana e culturale. Un altro assaggio delle musiche che avete raccolto così in maniera estemporanea durante la vostra camminata. Questo è un assaggio di Albania, giusto Diego? Esattamente, questo è un assaggio di Albania, poi abbiamo raccolto veramente tanto materiale, sia video che audio, e quest'inverno poi faremo una selezione di tutto quello che abbiamo raccolto, cominceremo a raccontare alla gente quello che abbiamo visto, per così dare un'idea alla gente di quello che sarà il progetto vero e proprio del 2013. Ecco, che ce lo vuoi descrivere? Cosa accadrà il prossimo anno? Il prossimo anno praticamente noi, con l'esplorazione che abbiamo fatto quest'anno e con i contatti, creeremo un vero e proprio itinerario paesaggistico, culturale e musicale. Viaggeremo in barca a vela, quindi sarà un turismo pulito e sostenibile. Sì, sarà una flotta di barche a vela, la cui ammiraglia sarà la barca, la Dance, con i musicisti sopra. E tutti gli altri, tutte le altre barche a vela ci saranno dei turisti o della gente, insomma, che vuole seguire questo percorso nuovo, e ci fermeremo in tutte le località che abbiamo visitato quest'anno, e in ogni località ci saranno delle attività da fare, musicali, culturali, marinaresche, di ogni tipo, quindi sarà un vero e proprio itinerario culturale, musicale e turistico. E quindi chi volesse cominciare a pensare a una vacanza diversa per l'anno prossimo, www.ilcamminodellamusica.it, ci contatta e lo facciamo salire a bordo della nostra grande barca. Sì, infatti, una grande barca, tante lingue, tanti suoni, un progetto importante. Ilcamminodellamusica.it, crediamo che, insomma, anche progetti di questo tipo siano fondamentali per fare cultura europea, per fare Unione Europea, perché alla fine, insomma, l'unione passa anche attraverso queste esperienze, queste contaminazioni, questo incontrarsi, confrontarsi, fare progetti insieme, progetti che possono avere anche un'origine molto informale, come è quello che avete fatto voi in queste settimane. Grazie davvero, Diego, ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa per navigare insieme. Ciao e buon sabato. Sì, grazie Federico, portiamo a bordo anche voi, ciao. Ci saremo. Ciao. Europost-it. Tirocinio alla Corte di Giustizia Europea per traduttori, ricercatori e giornalisti. Se siete diplomati in interpretariato, laureati in giurisprudenza e giornalismo e siete in cerca di uno stage intenso e formativo, questa offerta è per voi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede a Lussemburgo, offre un numero limitato di tirocini retribuiti della durata di 5 mesi. Si cercano diverse figure da inserire presso la Direzione della Ricerca e Documentazione, il Servizio Stampa e Informazione, la Direzione Generale della Traduzione e la Direzione dell'Interpretazione. In particolare, i tirocinanti interessati a questi ultimi due settori devono essere diplomati in interpretazione di conferenza. Saranno seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione giuridica tramite anche esercitazioni pratiche in cabina muta. Per maggiori informazioni visitate il sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, curia.europa.eu. Questi sono i nostri Europost-it, li potete ritrovare sulle nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, oppure su Twitter, oppure sul nostro sito radio24.it. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a tutta la squadra, Margherita Ina e Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca oggi in assistenza e Roberto Scaltritti alla parte tecnica. Ci ritroviamo qua sabato prossimo, come sempre alle 10. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao!